fossi io e nel lento divagar una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ci si domanda molto spesso se noi siamo soli nell'universo. La presenza di entità extraterrestri, di UFO, rappresenterebbe sicuramente una delle più grandi meraviglie della nostra epoca, abituata ad ogni progresso scientifico, ad ogni traguardo raggiunto dalle meraviglie della tecnologia. Ma l'omino verde con gli occhioni, con la manina ci fa casa. Ecco, questo lo vorremmo vedere tutti. Noi abbiamo parlato della possibilità che noi possiamo non essere soli nell'universo in una puntata del 4 febbraio 2009. E questa mattina, anche se estate, anche se il cielo si presta meno a visioni di dischi volanti, ve la vogliamo proporre ancora. Bene, come avevo promesso, questa mattina riprendiamo a parlare di un tema che ieri vedo che ha affascinato il nostro pubblico. Noi ieri abbiamo cercato di gettare, ma in maniera molto sommaria, per i limiti di tempo e di necessità di non compatibili con la necessità di approfondimento, alcune idee, ricordando il bicentenario della nascita di Darwin, sulla possibile evoluzione dell'essere umano sulla Terra. Oggi come possiamo allargare questo discorso? Ieri vi abbiamo dato qualche segnale, soprattutto attraverso le forme improbabili della trasmissione del pensiero. L'uomo ha sempre immaginato, preconizzato, voluto credere, dato corpo alla sua possibilità di concepire altri mondi rispetto a quello che noi conosciamo. Non sto a parlare delle visioni trascendentali, metafisiche, ascrivibili al dominio della religione, ma a quella zona intermedia, mai ufficializzata, mai facente parte fino in fondo del côté scientifico, o in parte in qualche maniera supportata da alcune nozioni che possiamo definire scientifiche, che vorrebbe che oltre alla stirpe umana, come noi la conosciamo in questo grado della sua evoluzione, possono esistere altri mondi, altre realtà, altre maniere di autodeterminarsi. Qualcuno li chiama extraterrestri, qualcuno li chiama alieni, qualcuno parla di legami fantastici fra antiche mitologie e possibilità che esistano mondi così avanzati e con un tal dominio della possibilità di muoversi nello spazio e nel tempo, di poter aver magari visitato questo pianeta al tempo degli antichi egizi e poi essere ritornati magari negli anni 50 e essere ancora lì a vegliare e sorvegliare la nostra evoluzione o la nostra capacità di distruggerci. Beh, questo è il tracciato fantastico su gran parte della narrativa fantascientifica nei decenni, raccontato come l'uomo ha sempre immaginato e pensato che qualcun altro, lievemente diverso da lui ma costitutivamente simile a lui, possa in un momento apparire. Mi sono portato dietro da Roma, oggi trasmetto da Milano con grande gioia e grande divertimento, Stefano Moriggi, filosofo della scienza. Buongiorno Stefano. Buongiorno Gianluca. Vediamo come riprendere il filo di questa discussione che abbiamo abbandonato ieri. Ti darò subito una suggestione sonora per entrare nel clima e far capire esattamente quello di cui stiamo parlando. Altamente probabile treno di impulsi sulla sottorete 4. Sto spostando le altre antenne, voi mi dovete confermare le coordinate. Controlla la situazione delle antenne. Peccato, l'ho preso, lo sto ricevendo. Dai, fammelo sentire. Lo sentite? Stiamo registrando? Mai smesso. Punto d'origine confermato. Qualunque cosa è, non è in zona. Non può essere, dista 26 anni luce solamente. Questo è un film con Jodie Foster, Contact, UFO Contact, in cui lei fa parte di una scienziata, non so se un'astrofisica, cacciata dal centro di Arecibo, il centro dove si sta svolgendo il programma SETI, che è un programma importantissimo di cui parleremo, è uno dei tanti, delle tante prove scientifiche che in realtà qualcuno si sta occupando anche della possibilità di altri mondi paralleli, che sente improvvisamente un giorno da dallo spazio un segnale particolare e si mette in contatto con l'entità astratta, astrale, sconosciuta, che addirittura dà delle indicazioni di come costruire una navicella spaziale per mandare un terrestre in quella loro dimensione. Ecco, Stefano, questa è la punta più avanzata della epica contemporanea legata ai mondi paralleli, ma nella storia dell'umanità c'è sempre stata un'attenzione a qualcosa che non fosse umano, più che umano, al di là del mondo delle divinità. Assolutamente sì, noi siamo abituati a collocare la possibilità di parlare di mondi alternativi o di vite diverse dalla nostra, posizionandole nel contesto dell'immaginario. Dovremmo proprio ritornare anche alle discussioni che si facevano ieri, per esempio quelle due grandi rivoluzioni che hanno cambiato il mondo e la possibilità di guardare al mondo, per capire che la possibilità perlomeno di concettualizzare mondi alternativi e diversi dai nostri è un'idea molto antica. Do un riferimento all'atomismo di Democrito, poi ripreso per esempio in letteratura nel De Rerum Natura di Lucrezio, che riprende già una variante più tarda, cioè quello di Epicuro. La stessa possibilità di concettualizzare l'universo fatto di atomi e vuoto consentiva a Lucrezio e agli atomisti che l'hanno preceduto di pensare che si formassero e si disgregassero, si corrompessero altri mondi alternativi ai nostri. Pensa a cosa è successo con all'epoca, invece, per fare un salto anche temporale significativo, della rivoluzione copernicana, quando alcuni non solo si permisero di decentralizzare la Terra dal centro dell'universo, ma alcuni, come Giordano Bruno, teorizzarono che l'universo fosse infinito. In un universo infinito viene, verrebbe da dire, naturale immaginare, poi magari ci torneremo in maniera un pochino più particolareggiata, la possibilità di infiniti mondi e, perché no, infiniti mondi anche abitati. 800 24 00 24 è sempre il nostro numero verde. In che maniera potete intervenire? Beh, vi siete mai posti questa domanda? Se l'universo è infinito, è grande, è immenso, è pieno di imprescindibili realtà di cui ancora abbiamo poca maniera di conoscere tutto, di conoscere soltanto delle labilissime nozioni, non è possibile che in questo mondo esista qualcos'altro che assomiglia alla vita? Saranno esseri con tre gambe, con sei occhi, saranno esseri verdi squamosi, o saranno belli come gli angeli, come qualcuno se li immagina, ma saranno da qualche parte queste persone. Fin dalla nostra più tenera infanzia, i detentori del potere scientifico ci hanno sempre fatto credere che la realtà è una sola, inserita in un universo meccanico che funziona come un orologio. Un orologio che, una volta caricato, continua ad andare per la sua strada, obbedendo solo a leggi meccaniche e robotiche, il che non è vero. La realtà è piuttosto proteiforme, cioè si presta ad infinite modificazioni, dando luogo a scelta al paradiso o all'inferno. Insomma, quello di cui ci stiamo occupando è un universo che ha più di una dimensione. Possiamo dire che la realtà, in realtà, è pluridimensionale. Ci sono molte più dimensioni di quelle che vediamo quando, ad esempio, guardiamo un angolo. Oltre alla lunghezza, alla larghezza e all'altezza, ci sono altre dimensioni che non siamo in grado di percepire e che molti scienziati continuano a studiare. Abbiamo in collegamento il professor Elio Sindoni. Professore, buongiorno. Buongiorno. Elio Sindoni è professore ordinario di fisica generale presso l'Università degli Studi Milano Bicocca, direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali. È stato anche autore di un libro, Esistono gli extraterrestri, Il Saggiatore, un libro di qualche anno fa, del 98. Però il fatto che un fisico si interessi comunque a questo problema, o dica la sua, ci fa magari riflettere sul fatto che sono realtà che vanno comunque prese in considerazione, senza naturalmente poi dare il fianco a tutte le immaginifiche ufologie o teorie sugli alieni come nostri progenitori. Professor Sindoni, sì. Ecco, come mai un fisico si è interessato a questo problema degli extraterrestri, dei mondi paralleli? Il problema è questo, che io da molti anni dirigo anche una fondazione, Villa Monastero di Varenna, dove si fanno dei convegni congiunti tra scienziati, filosofi, teologi, artisti, eccetera. E uno dei convegni che è stato fatto un po' di anni fa riguardava proprio la possibilità di vita intelligente nell'universo. Ora dobbiamo distinguere il problema di vita e quello di vita intelligente. Ora, proprio da questo convegno è nata un po' a me la voglia, diciamo l'idea, di scrivere un piccolo libro, collana due punti, una collana che purtroppo non esiste più, ma sono dei libretti che si leggevano in un'ora, no? Parlando non di UFO, parlando della probabilità che ci sia vita da altre parti oltre che sulla Terra. Quindi è uno studio, diciamo, abbastanza scientifico, che parte da un'equazione, la famosa equazione di Frank Drake, dove la probabilità è espressa come prodotto di molti fattori, ognuno dei quali rappresenta per esempio la probabilità che ci sia un'altra stella tipo il Sole, un altro pianeta tipo la Terra e così via, no? E alla fine si arriva a un certo numero. Diciamo, il punto di vista più razionalmente umano che noi abbiamo per rispondere a questa domanda, se esistono altre forme di vita intelligente. Sì, sì, questo. Devo prima premettere una cosa. Ho sentito parlare prima di universo infinito o universo molto molto grande. Le due cose sono completamente diverse, no? Il nostro universo, per quanto ne sappiamo noi, non è infinito, ma è illimitato. Se l'universo fosse infinito, no, ci sarebbero infinite terre, infiniti Stefano Morigi e così via, no? Quindi è molto diverso pensare. Sì, sono le radicalizzazioni. Lei pensi che Buzz Lightyear, il personaggio astronauta di un noto cartone della Pixar, ha come sua parola d'ordine verso l'infinito e oltre, per pensare che poi il paradosso è l'elemento più usuale nella narrativa fantascientifica. Lei giustamente puntualizza, ma oggi per questo abbiamo chiamato uno scienziato e non un ufologo. Vogliamo portare razionalmente questo tipo di problema, questa domanda che comunque si fanno e sono sempre fatti gli uomini, nella massima possibilità di razionalizzazione possibile, ammesso che questo sia possibile, perché oltre, diciamo, una lettura di tipo scientifico, non credo che esistano altre letture. Morigi ha parlato di mitologia, di letture filosofiche, ma avrei dovuto forse chiamare un teologo, ma un teologo non credo che mi ammetta che possano esserci possibilità che altre vite intelligenti si muovano nell'universo. Sì, teniamo conto di questo, no? Che finora noi adesso sappiamo esattamente com'è grande il nostro universo, no? Perché abbiamo un numero addirittura, sappiamo che il Big Bang è avvenuto 13,7 più o meno 0,03 miliardi di anni fa, no? Quindi sapendo l'età sappiamo anche la dimensione, no? Questo universo contiene circa 400 miliardi di galassie e in ognuna di queste ci sono da 100 a 300 miliardi di stelle, quindi un numero enorme, no? Allora, perché qualche forma di vita possa nascere, però non sappiamo ancora come possa nascere, cioè non sappiamo come si passi dalla chimica alla biologia. Cioè, le faccio un esempio, insomma. La chimica è i pezzi di un'automobile messi appoggiati su un tavolo, la biologia è questi pezzi messi insieme, l'automobile che funziona, no? Ora, perché nasca qualche forma di vita, ripeto, non sappiamo come, basta che vi sia del carbonio, dell'acqua e dell'energia. Se ogni, no? tanto ci sono queste trionfalistiche scoperte, abbiamo scoperto l'acqua su Marte, poi vengono smentiti, poi riappare comunque qualcuno che trova l'acqua. Il semplice fatto che si scopra comunque l'acqua non significa che lì possa essersi mai svolta una vita biologica come noi la intendiamo. No, significa che potrebbe esserci stato, no? Perché senza acqua la vita è veramente difficile, cioè, la vita come noi la concepiamo. Teniamo anche conto di un'altra cosa, no? Non vorrei mischiare troppo i problemi, cioè, tornando a quello che ho detto prima, visto il grande numero di stelle eccetera, è abbastanza probabile che da qualche parte si sia formata un tipo di vita come la nostra, no? Quello che invece è molto molto più problematico è che questa vita sia riuscita a evolvere dai primi, diciamo, esseri viventi, no? Batteri per esempio, all'Homo sapiens sapiens. Quindi questo, diciamo, l'equazione di Drake, cosiddetta in varie versioni, cerca proprio questo, di calcolare questa probabilità. E questo, diciamo, lei mi fa il punto dal punto scientifico su questa ipotesi, però lei sa benissimo che la narrativa, non voglio dare a questo un carattere di certezza, invece che è tratta e tutta la pubblicistica sul problema di altre vite, ipotizzano che siano delle civiltà ancora più evolute delle nostre, che hanno addirittura raggiunto dei livelli di evoluzione tecnologica, scientifica, ma anche di gestione comunque dei rapporti fra esseri viventi, che addirittura li vedrebbero come silenziosi osservatori della nostra civiltà in decadenza. Questo è fantascienza, appunto. Certo, sì, ma come tale la cito, naturalmente, sì. Come diceva Fermi, se ci sono, dove sono? Perché non si sono ancora fatti vivi? Se sono così bravi, così veloci, appunto, e così avanzati. Comunque, tenga conto di questo, che la fisica che noi conosciamo sulla Terra è la stessa che vale in tutto l'universo. Cioè ci sono dimostrazioni, tipo quelle di Einstein, eccetera, no? Anche la chimica che noi conosciamo sulla Terra vale in tutto l'universo, perché noi sappiamo gli elementi con cui sono fatte le stelle, il materiale interstellare, eccetera, non ci sono altri elementi rispetto. Anche perché facendo parte noi di quell'universo ne siamo una parte, quindi siamo un osservatorio efficace di quello che esista poi in questo universo. Quindi è abbastanza probabile che anche la biologia sia la stessa, no? Quindi se ci fossero altre forme di vita, non credo che possano essere diverse dalla vita basata sul carbonio che si è sviluppata sulla Terra, cioè è molto difficile una vita basata sul silicio, per esempio, no? Quindi non aspettiamoci omini verdi con le antenne, eccetera, insomma. Peccato, che sarebbe stato interessante vedere. Sentiamo Fabrizio da Torino. Fabrizio, buongiorno. Oh, pronto, buongiorno Gianluca, grazie per l'opportunità di parlare con lei, o sì, con te, va, perché mi vieni più del tu. Andiamo al punto. Io ho riflettuto, leggendo anche, se ricordo bene, che sulla Terra c'è vita a 30 km d'altezza e a 11.000 metri di profondità nelle profondità oceaniche. Ossia, in questo pianeta abbiamo talmente tante specie viventi che non le abbiamo neanche ancora catalogate tutte, no? Cioè lei dice, gli alieni ancora ce li abbiamo, dobbiamo conoscere quelli che vivono assieme a noi. Quelli che vivono nella nostra sfera e andiamo a cercare in altri mondi. È ovvio che l'universo è illimitato, come diceva il signore di prima. Il signore è un importante fisico. Il fisico di prima, col quale non mi posso minimamente competere, assolutamente no. Ma se la vita si fosse evoluta sulla Terra, abbiamo qualche possibilità che si possa essere evoluta anche in altri mondi. Ma se la vita è stata progettata sulla Terra, allora bisogna che il progettista che l'ha progettata qua l'avesse progettata anche da qualche altra parte. Però questo non lo sappiamo. Stefano, visto che ieri hai seguito assieme a noi tutto il discorso, appunto, in cui si parlava anche di questo progetto, la domanda di questo signore è abbastanza interessante. Innanzitutto questo concetto che l'alieno, il differente, qualcuno che ci appartiene in quanto facente parte di uno stesso schema fisico, biologico, chimico, lui dice, però abbiamo talmente tante realtà non esplorate nel perimetro della nostra Terra che probabilmente basterebbe scendere nel microcosmo per capire anche altre chiavi. Sai, a volte capita di confondere l'inspiegato con l'inspiegabile, no? E allora nell'alieno si proiettano paure o speranze dell'umanità. Riprendendo il discorso che faceva Sindoni, è anche bello riprendere quella definizione o evoluzione di un concetto. Evidentemente all'epoca della rivoluzione copernicana la parola infinito si usava. Da quando viene abbattuta quella che chiamava l'ultima sfera mundi, cioè l'ultima sfera celeste in cui era chiuso l'universo aristotelico, si apre una riflessione sulla possibilità dell'infinito. Effettivamente, come Sindoni ricordava, se l'universo fosse infinito ci sarebbero infiniti Sindoni, Morigi e Nicoletti, perché anche nell'infinito un evento che ha una probabilità di accadere che tende a zero, quindi sommamente improbabile, accade infinite volte. L'evoluzione della cosmologia ha spiegato le teorie più recenti, qui Sindoni può dire molto più di me, che l'infinito ha una sua grandezza ed è illimitato e non infinito. E questo abbassa le probabilità di accadimento degli eventi, soprattutto quelli degli eventi improbabili. Quindi riconduce anche la possibilità e le condizioni che evolva una vita, diciamo così, analoga alla nostra, al di là della distinzione tra vita o vita intelligente, sia sulla Terra sia in altri contesti. Credo che il discorso vada riportato all'interno di questi binari, altrimenti ci si rifugia in bisogni o paure più di natura psicologica che non controllabili dal punto di vista scientifico. Ecco, professor Zindoni, la domanda che le farò fra un istante riguarda proprio quello che ha appena accennato come filosofo della scienza Morigi, e già è il tono di molte telefonate. Mi chiedono sul multiverso, sulle teorie delle bolle, sulle superstringhe, insomma, quanto la fisica poi realmente dà spazio poi al fantastico spaziare delle teorie fantascientifiche sui mondi paralleli. Melog 2.0. Piloti dell'aviazione militare e civile di tutto il mondo riferiscono continuamente delle loro singolari esperienze nei cieli, compresi incontri con UFO. Il 19 settembre 1979 un UFO seguì un aereo militare nei cieli della Germania. Questo bombardiere B-52 stava volando dalla base aerea di Edwards verso la California nel 1954 quando un UFO fu avvistato vicino al velivolo. Nel giugno 1976, mentre veniva ripreso in volo il Concorde della British Airways, apparve un piccolo UFO. Dopo varie evoluzioni attorno all'aereo, che rivelavano una guida intelligente, l'UFO si dileguò a grande velocità. .800 24 0024. Il problema è ben più complesso e noi lo affrontiamo anche con strumenti più razionali. Però quello dell'UFO, dell'extraterrestre, quello dell'omino verde, quello dell'omino dissezionato, quello della fantasia che si mischia con la realtà, quello delle notizie che molte volte appaiono nei giornali, quello delle smentite, quello del fatto che possa esistere un grande disegno di occultamento di questa realtà per nascondere all'umanità dei segreti che non potremmo essere capaci a elaborare, è un grande momento dell'immaginario dell'epoca in cui stiamo vivendo, e quindi comunque anche di questo diamo una nostra testimonianza. Ricevetti dei documenti che attestavano l'atterraggio di un UFO nel mezzo di White Sands, nel Nuovo Messico, che questo oggetto era inerte e sotto sorveglianza, e che ci sarebbe rimasto finché non si fosse capito se era ostile o amichevole. Poi si scoprì che era amichevole e che gli occupanti erano morti. Quando salimmo a bordo trovammo 5 cadaveri, di taglia minuta, saranno stati alti circa un metro e 10. Il più alto sarà stato non più di 1,20 m. Lì per lì avemmo la sensazione che fossero tutti maschi. Quando tornammo in volo a Wright-Patterson per sottoporli a vari tipi di analisi, l'autopsia confermò la nostra prima impressione. Dalle descrizioni fornite da molti testimoni, sappiamo che gli alieni avevano occhi grandi, naso e bocca molto piccoli. Erano alti 3 piedi e 6 pollici, circa 1 metro, ed erano privi di peli in tutto il corpo. Il presidente Truman avrebbe ordinato di mantenere il massimo segreto dopo la cattura di un alieno vivo che era precipitato con un UFO. Professor Elio Zindoni, riprendiamo il nostro discorso interrotto. Abbiamo dato testimonianza di epica contemporanea. Naturalmente potremmo anche rigirare la domanda se esiste qualcosa che si è presentato in tante maniere, in tante certezze in questi ultimi decenni. È possibile che alla fine nessuno abbia mai portato poi una prova certa e inconfutabile l'esistenza di questi mostri verdi. Ecco, lei come scienziato potrebbe aggiungere qualcosa rispetto a questi frammenti fantascientifici? No, sono appunto fantascienza. Se ci fosse stato qualcosa di vero, cosa che ritengo molto improbabile, ci sarebbero state delle prove, insomma. Poi non vedo questa tendenza della presidenza degli Stati Uniti a tenere nascoste queste cose, insomma. Beh. C'è anche il fatto che appunto ci sono dei problemi anche commerciali. Se uno va a Roswell, ci sono negozietti dove vendono omini verdi, eccetera, quindi bisogna stare anche attenti a quello che poi serve dal punto di vista commerciale, no? Poi è una vena inesauribile, dai Men in Black a un'infinità di racconti e storie in cui l'alieno è anche diventato incorporato, quello che una volta era appoggiato in alcuni mostri della narrativa gotica o mostri dell'immaginario. C'è sempre questa presenza che riemerge, o è cattivissimo o è buonissimo, o sono gli antichi progenitori che riappaiono ogni tanto, sono delle presenze diaboliche che vogliono soltanto mangiarci. Quindi qui abbiamo capito che si è aggregato tutto un immaginario che è antico come il mondo. Invece, rispetto alla domanda che l'avevo fatto prima, gli universi paralleli, che è un altro argomento molto saccheggiato dalla narrativa fantastica. Sì, dunque, la cosiddetta teoria del multiverso, sviluppata soprattutto dal fisico russo, adesso americanizzato, Andrei Linden, sono teorie matematiche molto eleganti che però non potremmo mai sperimentare. Cioè, noi siamo chiusi in un universo, siamo limitati dal fatto che la luce ha velocità grande ma non infinita, non possiamo uscire dal nostro universo. Quindi uno può fare tutte le teorie matematiche più eleganti e più divertenti, eccetera, però non potremo mai sperimentarle. Le prime ha parlato di stringhe, no? Quello delle stringhe invece è una teoria matematica che riguarda la ricerca dell'elemento fondamentale, no? Cioè delle particelle più piccole, dei veri mattoni che formano la materia. Anche questa è una teoria matematica, ma non è detto che prima o poi si possa fare qualche esperimento. Quindi stringhe e universi paralleli sono due cose un po' diverse, insomma. Sì, però entrambe le teorie, abbastanza complesse da spiegare e semplificare una trasmissione radiofonica, danno l'idea, e per questo ho lei questa mattina in studio, che comunque esista una branca della fisica, una branca delle scienze esatte, che in qualche maniera presupporrebbe la possibilità che, oltre alla realtà come la conosciamo, come la percepiamo, come noi siamo abituati a considerarla, perlomeno noi uomini occidentali e razionali, possano esistere come delle infinite fessure attraverso le quali si ipotizza che possano esistere un'infinità di mondi, anche mondi che riproducono noi stessi come siamo, leggermente diversi. Sì, beh, questa però non la chiamo scienza, la chiamo la scienza che vuole, diciamo, invadere un po' il campo della metafisica, perché se c'è qualcosa che non è sperimentabile, per me non è scientifico. Stefano Morigi, un filosofo della scienza, su queste sfumate lente fra scienza e metafisica, sulle quali si appoggia poi una reale, concreta e condivisa, oltre magari la razionalità, epica contemporanea. Sì, io sono assolutamente d'accordo con Sindoni. C'è sempre più il tentativo di dare un aspetto di razionalità, traducendo alcuni appunto bisogni psicologici, se vuoi anche culturali, in termini che mi verrebbe da chiamare pseudoscientifici. Il problema dell'alieno, della vita in altri mondi, il bisogno quasi di trovarlo, non fosse altro per esorcizzare delle paure più o meno ancestrali, andrebbero ricondotte, mi rendo conto che questo è uno sforzo, ma è lo sforzo che la scienza fa anche, ricondotte in termini controllabili. Non è un caso che molte, chiamiamole apparizioni, avvistamenti, esibizioni di questi cosiddetti alieni o oggetti non ben identificati hanno l'apparenza hanno l'apparenza di come l'immaginario, anche l'immaginario cinematografico, ce li ha presentati. Come dire che il desiderio si ritraduce in una forma che già l'immaginazione ha pensato. E questo, sì, siamo tutti convinti che se l'alieno ci apparisse, ormai delle caratteristiche fisiche, esatto, ben determinate. Poi i manuali degli specialisti li classificano in varie forme. C'è quello verde con gli occhioni, c'è quello con i capelli lunghi biondi che assomiglia a un angelo, esiste quello mostriforme, una sorta di ameba terrificante. C'è anche una alienologia, cioè un manuale delle forme aliene. Sentiamo la voce di qualche ascoltatore, anche così ci confortiamo con l'opinione comune rispetto a quello che cerchiamo di trattare in termini razionali. Simone, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo porre semplicemente un quesito, ma se la nostra conoscenza, il nostro scibile semplicemente, non fosse illimitato, ma semplicemente molto grande, ossia se noi non avessimo le conoscenze necessarie per poter, magari in un futuro, se da un punto di vista teorico fosse possibile che ci siano altre vite, altre forme di vita, Lei dice gli strumenti che abbiamo a disposizione in questo momento, logicamente non ci consentono nulla, perché anche solo pensare di osservare una stella che sta a miliardi di anni luce da noi, quello che arriva a noi è l'immagine di qualcosa che magari è diventato un quasar o un buco nero o magari non esiste più. Cioè lei dice, quando avremo, come Jodie Foster nel film di cui abbiamo dato un appunto, la possibilità di intercettare realmente una trasmissione aliena, forse potremo avere strumenti in più. Va bene, però quello ancora non lo sappiamo. Non sappiamo quando sarà possibile e come sarà possibile, non sappiamo nemmeno se in realtà questi strumenti di sofisticata tecnologia poi ci daranno questo tipo di risposte, non ci daranno risposte magari ulteriori, più approfondite su quello che noi abbiamo come universo percepibile. Grazie, Giorgio, buongiorno. Pronto? Sì, Giorgio, la sto ascoltando. Sì. Volevo dire, se si rapporta con questi ipotetici alieni come se noi fossimo i primi della classe, e se invece fossimo gli ultimi della classe? E poi volevo dire un'altra cosa. Cioè, lei, la teoria di cui parlavo prima, cioè che in realtà gli alieni siano infinitamente più avanti noi come civiltà. Sì, e non si vogliono, diciamo, confondere con noi, perché a un certo punto voglio vedere quante volte la regina d'Inghilterra vuole andare a parlare con Clochard. Quindi non scendono nella borgata che noi abitiamo, ecco. Ecco. Poi volevo dire un'altra cosa. Io nel 58, avevo 8 anni, ho visto un oggetto del futuro. E cos'era? C'era presente quelle cannucce per fare le flebo, quelle trasparenti in plastica. Nel 58, sono sicuro, poi mi sono informato, non esistevano. Io invece l'ho visto infilato con un ago nella corteccia di un albero, no? E raccoglieva questa linfa, e erano proprio tubicini di plastica trasparente. E nel 58 non esistevano. Non esistevano i tubi di plastica nel 58? No, quelli trasparenti, sottili per fare le flebo, non esistevano. E quindi deduce? Ho visto una cosa del futuro, un oggetto del futuro, è tutto lì. Io comunque poi ho avuto altri due avvistamenti di oggetti non identificati. Comunque io... E cosa erano questi altri? Dunque, prima un globo di luce rossa, no? Cioè un oggetto tondo che viaggiava lentamente, poi un altro è partito, diciamo, andava verso ovest, poi è andato verso nord in una velocità stratosferica, proprio una cosa impressionante. Sì, quindi lei è un avvistatore. Poi, due soli ne ho avvistati, poi quel famoso oggetto del futuro, e il secondo avvistamento, un oggetto tondo, nero, fermo, diciamo sulla verticale di Marina di Pisa, proprio era immobile. Comunque, sente, io di oggetti volanti, cioè di macchine volanti, ne so qualcosa, perché fra l'altro sono anche pilota, no? Perciò non è che mi invento chissà cosa, ho visto cose impossibili alla nostra, diciamo... Cioè che noi umani non ci possiamo immaginare. Cioè, la nostra tecnologia è impossibile. Capito? Comunque nel 58 io ho visto un oggetto del futuro, cioè i famosi tubicini di plastica trasparenti. Beh, questo è il dato che noi registriamo senz'altro. Diamo tempo ai nostri ospiti di riflettere soprattutto su questa straordinaria cronologia del tubicino di plastica trasparente, che nel 58 era appeso a un albero, e per il nostro ascoltatore, vedete com'è facile poi trovare a se stessi prove delle esistenze aliene, era un segnale, qualcuno ce l'aveva messo perché lo portava probabilmente da una civiltà più avanzata. Melog 2.0. Generale Casey, la sua opinione, per favore. Beh, signore, siamo sicuri che siano ostili? Come si arriva a dire siamo sicuri? Signor Presidente, hanno circondato il nostro pianeta con migliaia di astronavi da battaglia. Siamo sicuri che siano da battaglia? Professore, su di loro che cosa sappiamo? Che sono estremamente avanzati a livello tecnologico, il che ci autorizza anche a supporre che siano creature pacifiche. Una civiltà altamente evoluta è, per definizione, non barbarica. Signor Presidente, questo è un gran giorno. Io e tutti i miei colleghi siamo estremamente eccitati. Bene. Forme di vita extraterrestri. Hai ragione, Jerry. Le masse impazziranno, è garantito. Stiamo per vivere un momento storico, signori. Questi sono gli invasori marziani del film di Tim Burton, che in fondo è la parodia più macabra di quello che è anche il sogno di gestire l'immaginario collettivo come strumento di potere. Jack Nicholson, presidente degli Stati Uniti, era tutto contento, che pensava che questo suo patto extraterrestre gli avrebbe dato prestigio, ma in realtà questi esserini erano il male impersonificato, di una cattiveria, di un sadismo, si divertivano a fare del male. Questo è probabile maniera di come sia anche possibile maneggiare le ansie, i desideri, le credenze comuni. Professor Sindoni, a parte diciamo il tubicino trasparente, mi faceva notare Morigi che un oggetto che non esiste in un'epoca che invece noi stiamo vivendo in sé è una contraddizione in termini. Il progetto invece più avanzato, razionalmente, scientificamente descrivibile per conoscere, vedere, saggiare, è quello che abbiamo, i mondi alieni, è quello che abbiamo soltanto nominato, che è il programma SETI. Di cosa si tratta esattamente? Ma dunque SETI, Search Extraterrestrial Intelligence, è un sistema di radiotelescopi che diciamo localizza certe zone del cielo cercando di vedere se in mezzo ai segnali caotici che provengono, no? Abbiamo dei segnali che, per esempio il segnale della radiazione fossile che... Ha una sua voce l'universo, l'universo non è silenzioso, noi comunque lo percepiamo, sì, e lo sentiamo respirare. È molto rumoroso, sì. Però appunto si cerca dei segnali regolari, perché si pensa che se qualcuno volesse comunicare con noi userebbe un codice diciamo regolare, cioè non dei segnali caotici. Siccome nel film Incontri ravvicinati terzo tipo, che era una sequenza di note che dava l'idea che ci fosse un disegno di qualcuno, ci vuole dare un segnale. Sì, ecco. Per esempio, cioè, questo è descritto molto bene nel film che lei ha citato, Contact, no? Che tratta proprio di questo progetto SETI. Per esempio, diciamo che ci sono molti telescopi collegati, un progetto che costa moltissimi soldi, e io ho appunto incontrato anche Frank Drake, che è stato uno degli ispiratori anche del progetto, e pensava che per avere dei ricevitori veramente esenti da interferenze terrestri, eccetera, sarebbe necessario costruire un radiotelescopio nell'unico punto dell'universo da cui non si vede la Terra, cioè l'altra faccia della Luna, no? Però vabbè, sono progetti molto molto costosi. Quindi fare un salto avanti con l'osservatorio e spostarsi sulla Luna. Sì, teniamo conto però che con l'osservatorio telescopio in orbita Hubble e con i nuovi telescopi in orbita che si stanno progettando già si può andare molto lontano, si sono già scoperti più di, pare, 200-300, non mi ricordo il numero, pianeti extrasolari, no? Però tutti, nessuno dei quali è simile alla Terra. Anzi, poco tempo fa è stato proprio visto effettivamente un pianeta, perché prima non erano osservazioni dirette, erano solo osservazioni basate su deviazioni del moto delle stelle madri, diciamo. Poi invece ultimamente si è vista proprio un pianeta più o meno tipo Gioviano, no? Questo però farebbe pensare, professore, che se si fanno investimenti così cospicui seguendo questa via, quella dell'osservazione, in realtà non esistono queste prove nascoste, occulte, perché in quella direzione altrimenti verrebbero fatti gli investimenti. Cioè non abbiamo niente da vedere di concreto, da osservare. Se con dei grandi telescopi cerchiamo di scrutare, prolungando quelli che sono i nostri sensi di osservazione. Sì, tenga anche conto che ci sono delle grosse ricadute, perché per esempio per sviluppare questo progetto sono necessari enormi sistemi di computer, eccetera. Quindi c'è sempre una ricaduta tecnologica, no? Quindi non sono soldi spesi solo per ricerca di base, insomma. Alla fine c'è questa grossa ricaduta tecnologica, insomma. Per questo anche si spendono questi soldi. Sentiamo Irene. Irene, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo dire che per me l'infinito è uno stato intimo piuttosto che il prolungamento del mondo, nel senso che lo vedo più come un desiderio di approfondire e conoscere ciò che c'è di sottile nell'esistente, che secondo me è ancora qualcosa di sconosciuto e misterioso. Ecco, se io devo vederci il mistero, lo vedrei lì. E forse secondo me è anche quello che sta alla base della ricerca scientifica, E sarebbe anche forse carino dare più spazio a questo aspetto, ecco. Cioè, c'è tanto ancora di conoscere dell'esistente umano che forse meriterebbe anche più attenzione. Sì, ma spero che avrò ancora tempo a disposizione per parlare a questo microfono, almeno fino a giugno, quindi non è detto che anche la ricerca, l'introspezione e l'approfondimento dell'esistenza di mondi interiori condivisibili non faccia parte dei nostri futuri progetti di trasmissione. Ma lei perché li vede così contigui e o anzi così contrapposti, l'idea di guardare oltre rispetto ai limiti dati appunto dalla fisica come noi la conosciamo, e la possibilità invece di guardare all'interno di noi stessi? No, io non li sento così contrapposti, anzi penso che gli do lo stesso significato, cioè il fatto che ci sia questo anelare anche a mondi lontani, cioè in questo ci vedo il fatto che ci sia comunque un desiderio di conoscersi meglio, anche il fatto di andare oltre i propri limiti è comunque il desiderio anche di prendere coscienza degli stessi e di migliorarsi, e quindi penso che anche nell'immaginario comune legato così al fantastico, ai mostri di cui abbiamo parlato, beh, questo è una base incredibilmente umana, diciamo la verità, cioè, noi stiamo analizzando alcuni luoghi comuni, alcune categorie del fantastico contemporaneo. Avremmo potuto parlare, se ci riferivamo ad altre epoche, dei centauri, di fauni, di ninfe, di esseri con tre teste. Ogni epoca ha manifestato il suo fantastico. Questa epoca manifesta molto, quando non si ripete, attraverso alcuni stereotipi come tutti i mostri, i vampiri. Questo, per esempio, è l'epoca in cui è l'anno in cui si parla molto di vampiri, riemerge il vampiro, ma ne abbiamo parlato, come qualcosa di cui non abbiamo cognizione. Stefano Morigi, esiste un atteggiamento filosofico paragonabile a quello che dice la nostra ascoltatrice? Guarda, sì, per raccogliere in qualche senso anche il suggerimento, la provocazione dell'ascoltatrice, mi verrebbe da segnalare in chiusura di trasmissione un effettivo avvistamento di una vita intelligente in un mondo altro, diciamo così, diverso dal nostro, che così perlomeno era percepito, che è già successa. È successa nel 1492, quando si è scoperto un nuovo mondo abitato da persone intelligenti, assolutamente intelligenti, mi riferisco ovviamente alla scoperta dell'America. È stata una scoperta sconvolgente, perché quell'altro, quell'alieno, si è scoperto che ci assomigliava molto, e questo è forse la cosa che ci spaventa di più. Grazie Stefano Morigi, grazie professor Zindoni. È in linea con quello che ci ha detto Stefano, adesso così concludiamo. Sì, senz'altro, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Stefano. Va bene, allora abbiamo un'infinità ancora di intelligenze aliene da scoprire, e molte di queste probabilmente sono racchiuse proprio nel nostro patrimonio di esperienza, che forse dovremmo sondare ancora meglio. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog 2.0.